Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, un buon lunedì a tutti, un buon lunedì da Caffè e Paglia, un saluto al contenitore sportivo di Radio Città Fujiko del lunedì mattina. Oggi finalmente, guarda, io mi sono svegliato stamattina, ho detto oh, ho voglia di ascoltare Caffè e Paglia questa mattina, ho voglia di ascoltare più che fare, ascoltare, quindi dovrete parlare voi. Un saluto a Mingo all'interno del salotto buono dello sport bolognese con un Simone vincitore della sfida della San Benedettese, cioè in quanto tifoso. Ciao Simone. Ma ciao, buongiorno a tutti. Non so che dire, io sto vivendo quel mese magico in cui le minors in Italia danno il meglio di se stesse. Se vuoi qualcuno bazzica la Serie C, sa di che cosa parla. Sa di cosa parla. Monopoli Foggia. Esattamente. Perfetto. Perfetto. Ne parleremo. Giorno. Del calcio internazionale, ovviamente. Un saluto anche a Dado, il nostro regista, che ormai è fatta, lì. Bravo. Adesso è quasi matematico. Bravo, è fatta. Ormai noi glielo stiamo dicendo già da un po'. Lo vedo ancora lì col suo calendario a controllare con la sua tuta. Per fortuna non ha la tuta, la stella della trasmissione, il nostro Fio. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Io, sentite la boccata d'azoto che ho tirato, certo. Proprio questa è proprio il clima da calcio balneare che si è impossessato di me, mio malgrado. Beh, cioè io non lo volevo, ma sono già... Sei già al mare, va bene. In realtà è una settimana che dal punto di vista del calcio bolognese ha raccontato molto, ecco, diciamo così. C'è stato Birmingham in mezzo e la sfida con la Juve, quindi due partite che avevano un senso abbastanza alto. Questa è proprio la sconfitta senza analisi della sconfitta, cioè non puoi neanche metterti là a ragionare razionalmente, sì, anche di cosa perché non ha serve funzionato. Nulla, perché siamo alla fine, non c'è praticamente più nulla da chiedere, no? Per quanto riguarda i felsini, chiamiamo così. L'ha anche detto il nostro allenatore in qualche modo. Anche male, lo ha detto, sì, anche male. Sì, sì, perché che ha detto? Ormai la stagione è finita. Ah, l'ha detto proprio, cerca proprio così. Non è una bella spiglia. Più o meno così. E l'altra cosa particolare è il fatto che lui ha messo in campo Bernardeschi per farlo salutare alla sua gente. Sì, tra l'altro ovazione del... Vabbè, certo, almeno quello dice. Che dà anche la misura di quello che è diventata la Juventus. Sì. Si ricorda. Una volta l'ovazione il popolo juventino lo faceva, che ne so, era tornato Zidane, si era affacciato Del Piero, è passato Platini per un saluto, e c'era l'ovazione. Adesso fanno l'ovazione per Federico Fernandez. Che io forse ricordo male, forse sono viziato dalle lenti dell'ideologia, ma mi ricordo che venisse trattato come un cretino quando giocava nella Juve. No, veniva trattato per quello che era, insomma. Ma forse anche persino un po' anche peggio. Un po' di più, esatto. Sì. Sempre in discussione, dai. Sì. E invece adesso pare essere diventato... Così, questo è un revisionismo storico. Ma non, che, so, da quelle non parti. So che dire, non so che dire. Comunque, questo è il fatto, insomma, la partita era ancora virtualmente contendibile, diciamo così. Poco prima il Bologna aveva l'occasione per riaprirla in un qualche modo nel giocatore che non ha giocato, che mi sembra, adesso parlando un po' della stagione, l'unico giocatore di alto livello che ha questa squadra. Perché Rowe ha iniziato male e qualcuno si chiedeva, ma questo chi è, il cugino di Lin Junior? Non era il cugino. Non era, in effetti era un po' più forte. È ovvio che insomma, la situazione arrivi dopo una sconfitta 4-0 netta, senza proprio storia. In cui tu giochi a Birmingham il giovedì sera, arrivi il venerdì pomeriggio a Bologna, il sabato fai sgambatura, ieri giochi a Torino. Esatto, ieri giochi subito dopo contro la Juve, che invece è in questo momento super concentrata, un po' come lo squalo che sente l'odore del sangue, no? La Champions League è la zona dove deve stare la Juve, in qualunque modo, anche se fosse nona a 10 giornate, a 5 giornate alla fine, la Juve punterebbe a arrivare in Champions League. Anche perché è fuori da tutte le competizioni di cui abbiamo parlato quest'anno. A settembre, ad agosto, scusate, dicevano altro, eh. Dicevano che l'Inter arrivava quarta, che il Milan e il Napoli si giocavano lo scudetto, che la Juve sarebbe stata lì. Ma quando lo sento parlare mi sembra il tizio dei Maneskin, che diceva sempre loro, ma loro chi? Tutte queste squadre, nomi e cognomi, tutte queste squadre di cui va tutto bene, Milan, Napoli e Juventus, in realtà stanno andando molto sotto alle previsioni. Questo Dado David. Ma chi? Sai, nel loro testo sempre loro, chi? Chi? Chi è che metteva l'Inter quarta? Diversi da loro. Ma l'anno dopo il 5-0, squadra vecchia da rottamare, da rifare, dai, non era favorita l'Inter ad agosto. Non diciamo. Vabbè, posso dire che probabilmente il Napoli sulla carta, dopo una bella campagna, su quella che sembrava essere una campagna acquisti, no? 180 fischioni. Esatto. Il Napoli te lo posso far passare, ok? Però adesso non esageriamo, cioè, non è che si dava l'Inter come spacciata. Il Milan senza le coppe, con il super Allegri risultatista, che vedrete che sarà lì che se la gioca. Ma chi ci ha creduto? Il Napoli, l'hai citato, la Juve che comunque tutti gli anni spende. No, lì va tutto bene. Ditemi chi ha creduto a Milan. È ancora più bello di quegli altri. Vedete, comunque il Bologna è talmente balneare che l'egemonia delle strisciate prende il sopravvento sul primo quarto di trasmissione. Esatto, dove questo per una comparsata. Per non parlare di questo Bologna che sembra uno di quei pensionati bellissimi che trovi nelle località balneari di terza fascia, tipo Lido degli Scacchi, Casal Borsetti, con la bici col portacanne per farsi una lunghissima villeggiatura statica. Ma è così tutti gli anni comunque. Però era qualche anno che non era così in realtà. L'anno scorso avevano mollato perché non ho vinto la Coppa Italia. La finale di Coppa Italia è fra un mese, quindi avevamo mollato un mese dopo. Ecco. E con la Coppa Italia. L'anno prima qualificazione in Champions, l'ultima hanno mollato. Gli anni precedenti mollavano un po'. Un ritorno a quel Bologna. Sì, quando molli perché sei in Champions. È un altro. Adesso vai a lavorare tu, Simone, questa settimana. Lavori bene lunedì, martedì e mercoledì. Giovedì e venerdì, visto che hai lavorato bene, non lavori. Poi venerdì dici la settimana è finita. La settimana è finita. Mi sa che di turno giovedì e sabato settimana, mi sa proprio di sì. Sono robe che mi fanno impazzire queste qua delle squadre volano alla fine del campionato. Il problema qual è, grosso? È proprio irrispettoso nei confronti dei tifosi, in primis e degli appassionati. Vinceremo solo con l'Inter. Qual è il discorso? È che non si era più abituati. 53-1 una curva San Luca. Non eravamo più abituati. Bologna negli ultimi anni aveva portato quest'ultimo mese concentrato perché c'era la semifinale, c'era cercare di arrivare infine in fondo per prendere un posto in Europa, l'Europa seria. Ora bisogna cercare di essere dignitosi, di portare a compimento il campionato in modo abbastanza, no? Dignitoso, proprio a livello estetico, cioè andate a giocare per divertirvi, non so come dirvi, cioè cercate di fare una buona cosa, poi bisogna fare dei grossi ragionamenti. Il primo ragionamento, allora partiamo dalla settimana, la settimana dell'allenatore del Bologna, che è quello che guida un po' la situazione. Ovvio, vai a giocare contro la Aston Villa, hai fatto quell'andata lì, in cui nel primo tempo probabilmente, diciamo, è molto probabile che sia stato un Aston Villa che ti ha guardato, ti ha lasciato un po' giocare e guardare, evidentemente, e poi gli hai regalato il gol dell'1-0. Loro non hanno fatto niente per segnare il primo tempo, ha detto: beh, adesso noi guardiamo la partita, vediamo com'è. Tu hai fatto il tuo, perché il Bologna ha fatto una bella partita, sì. 44 minuti, sì. Con l'Aston Villa all'andata. In realtà, insomma, è evidente che. Però tu arrivi e dici: ok, come posso creare un colpo di teatro per cambiare un attimo la formazione, per fare quel qualcosa di tattico, no? Per sorprendere la Aston Villa. Invece che invertire gli esterni, inverto i terzini. Cioè, vorrei sapere cioè, a un certo punto loro c'hanno lo staff, non è che sono come noi che esatto, vengono, esatto, arrivano, chiacchierano e fanno. C'è lo staff che ragiona e c'è uno che dice dai invertiamo gli esterni, allora, no, troppo c'è, facile. C'è una spiegazione, mi sono dato pensandoci molto una spiegazione razionale. L'idea di invertirli credo fosse funzionale a dare, ad alleggerire di responsabilità in impostazione i due centrali e a evitare quella cosa tipo passaggio orizzontale di Miranda dentro la propria area. Cioè, invece che metterli sul piede del cross, metterli sul piede dell'apertura in avanti. È una chiave, però, allora è una chiave per prenderne meno, forse. L'altra chiave dice... Se vai a quando arrivi a fare il quarto che passa sulla fascia, dopo tu potresti rientrare. Infatti loro quando arrivavano diciamo sulla fase offensiva tendevano un po' a centrarsi per portare un po' come gli esterni, no? Che sono a piede invertito, anche il terzino molto offensivo si ritrova con il piede giusto per calciare. Quindi questo può essere una però ho capito, ma cioè, voi avete fatto riunioni per tirare fuori quell'idea lì e arrivare alle praterie dove corrono dolcissimi le mie malinconie, dove prendi quattro gnocchi a Birmingham comunque. Sì, no, non è che hai fatto quel primo tempo là, no, nel senso hai che fatto dici, questo primo tempo qua. Oh, faccio un primo tempo e poi sono crollato perché non tengo i ritmi della una squadra di Premier che corre molto di più. No, sei entrato. Watkins ha fatto due gol da un metro, cioè prendendo la palla da un metro dalla porta. Ho avuto un momento, sarà anche la birra che bevevo durante la partita, che ho detto, cazzo, io nel mio prime a Viti che Casale un gol lo faccio. Io quando ero nel mio prime, io un gol lo facevo. A Viti che una palla sporca, una roba così, mica dico tutta la partita a dominarla. Se poi un gol lo facevo. Se poi ti fossi ricordato di tirare sul palo del portiere, sì, lo avresti fatto particolarmente bene. Cioè, sul primo palo sarebbe ancora, viene ancora più facile. Poi non è che nei gol Viti che Casale siano colpevoli più di altri. È più responsabile Miranda, sì, cioè, nel senso, sta succedendo un po' troppo. Però quella sensazione di fragilità là dietro era evidente al primo minuto, più o meno, dal primo minuto. È ovvio, Lucumi non c'era perché era squalificato, Lucumi è l'altro giocatore. Fondamentale top. Lucumata a parte che ti dà, sì, però dietro ti fa metà reparto. È vero che ogni tanto fa la Lucumata, ma tante volte la salva lui, esatto, quindi esatto. Comunque è vero, infatti il problema è Lucumi secondo me dovrebbe rimanere in una squadra come il Bologna o di quel livello lì, perché se va in una grande, in una big come vorrebbe andare, l'avevano accostato al Barcellona. ma chi? In quale bar? Per favore, è un buon difensore per il livello. Ma quanto più forte è Bastoni in marcatura rispetto a Lucumi? È scarso Bastoni, è più forte. Potrebbe essere uno che sostituisce Bastoni all'Inter. Visto che si parla di Bastoni a Barcellona, perché Bastoni a Barça sì e Lucumi no? Ma infatti non se ne parla più di Bastoni al Barcellona, era stata una robina uscita fuori dai giornali, stranamente nel periodo in cui giocava la nazionale, che non avevano niente da dire. Ma ancora credete a ste notizie voi? Dai, io non ci credo. Vedremo, però secondo me può essere che Bastoni non giochi all'Inter l'anno prossimo e Lucumi è un giocatore che potrebbe interessare all'Inter nel caso di sostituzione di Bastoni, per dire. Comunque rimane il fatto che è uno dei pochi giocatori del Bologna che potrebbe avere un mercato importante. L'anno prossimo non avrai al 99% competizioni europee, ancora c'è ancora una piccola speranza, ma oddio, se ogni volta che l'Atalanta non fa i punti che vorrebbe fare tu ne fai zero, diventa come Achille e la tartaruga, diventa l'utopia di Galeano, cioè diventa che te vai avanti così per il gusto di andare, appunto. Cioè, i segnali poi dati sono un po' anche quelli dell'allenatore. Ecco, sarà interessante capire se l'anno prossimo ci sarà lo stesso allenatore. Mi sembra che questi ultimi segnali anche comunicativi possano portare a una situazione che si sia un attimo scollata. È un po' la comunicazione gnolona di Italiano negli anni passati, nelle sue precedenti esperienze lavorative che non staremo a nominare, quella di questi giorni. Mi sembra un po' così. Io ho avuto il primo fischio alle orecchie quando, dopo la gara di andata, dopo il 3-1 al Dall'Ara, la gara di andata, vabbè, adesso andiamo a giocare lì, ma vi invito a non trarre considerazioni sulla nostra stagione dalla prestazione che vedrete lì qualunque cosa accadrà. Io già lì ho pensato, è un po' strana questa formazione, è un po' strana. Beh, aveva capito probabilmente che appunto la differenza tra le due squadre era veramente veramente alta. Rimane il fatto appunto che il Bologna deve capire come ripartire, riparte con meno introiti sicuramente dall'Europa, perché non li avrai, riparte con qualche cessione già fatta, anzi una già fatta, che è quella di Fabian, che ormai con la Fiorentina salva diventa automatica, un Holm che sta prendendo spazio nella Juve, quindi potrebbe anche crearti qualcosa, magari. Volesse il signore. Avete sentito parlare del rumor di scambio Holm di Gregorio? No, non l'avevo sentito, però ad esempio nello stesso bar dove Lucchini andava, cioè, a Barcellona. Lo faresti tu, Dado? Cosa? Holm per di Gregorio. Beh, sì, assolutamente. Sì. Beh, sì. Anch'io. Da quello che sento. Non sarebbe probabilmente. Sempre in quel bar lì Holm vorrebbe rimanere alla Juve. Holm, mi dicono che era anche juventino da bambino. Sempre è stato juventino. E quindi ha tirato fuori la maglietta. Lui e poi di Gregorio, secondo me, a parte l'ultima stagione non proprio brillante, comunque rimane un buon portiere, sì. Me lo ricordo ai tempi del Monza. Giovanile Inter. Uno dei problemi, diciamo così, emersi anche nella stagione, è che Skorupski inizia ad avere qualche chilometri e Ravaglia è un buon secondo, ma quest'anno ha dovuto fare il primo molto spesso e forse da primo non è ancora a quel livello. Nel simposio di intellettuali colti con cui ho visto la partita di Birmingham c'era un portiere, vero? Un grande portiere con noi, che quando viene assegnato il rigore veramente molto buffo assegnato all'Aston Villa, tranquillissimo il Micheloni dice: no ma tranquilli, lo para, poi prendi un gol subito, però questo lo para. Ah, dentro due due. Ha letto perfettamente la situazione psichiatrica della squadra. Quella, cioè, non l'abbiamo ancora citata, ma quella è stata veramente una roba, perché tu arrivi lì, c'hai il rigore, pari il rigore e dici: dai, allora siamo in partita, no, siamo sotto solo 1-0. Esatto. Eravamo sotto solo 1-0, pari un rigore. Cosa può andare peggio? Però ti dico, prendere gol dal fallo laterale. Ti dico, sì, bellissimo, con un ritardo di Miranda di un secondo e mezzo che manda in ritardo tutto il reparto, sì. Clamoroso. Mi ha deluso tanto di quest'anno qui. Il Bologna è venuto a mancare in modo clamoroso. Nel mercato. Al di là che Sartori è un anno e mezzo abbondante che sbaglia la campagna acquisti. Ma tutta la rosa, tutto l'ambiente Bologna è venuto a mancare nel momento in cui doveva fare l'ultimo passo. Ed è stata una grossa delusione, perché tu sei 2 anni e mezzo, 3, che invece sei stata la migliore in Italia, secondo me, a livello proprio societario globale. Cioè, nel momento in cui eri arrivato, ero sicuro che i giocatori si avessero lasciato che la situazione li rendesse più forti. Si dice che tante volte il ruolo che va a ricoprire una persona, anche se quella persona non ha il talento o i mezzi per ricoprire quel ruolo, molto spesso succede il contrario, che è il ruolo stesso che ti fa diventare più rispettoso del ruolo che vai ad occupare, cioè è il ruolo stesso che ti fa diventare importante, che ti fa diventare coraggioso, che ti fa diventare più bravo. E invece no, invece Bologna è venuto a mancare nel momento decisivo in cui sembrava davvero stesse per diventare una protagonista più alta, come possiamo dire, del campionato. Non ti dico una contender vera, anche se io un po' ci credevo potessi diventare una contender, però si è venuti a mancare proprio in quel momento, sembra che sia tipo collassato su se stesso nel momento più alto. Ed è una spia di una struttura che forse non era così solida come magari mi immaginavo. Ero certo che voi ormai foste lì. E invece no. Qualche messaggio al 333-180-94-94, andiamo a recuperarli prima della pausa. Buongiorno da Giuseppe, volevo chiedervi, ma secondo voi Italiano sarà ancora la guida del Bologna il prossimo anno? Perché dopo la finale in Arabia di dicembre il Bologna non è più esistito, o per dirlo la bolognese ha fatto sempre delle figurette. Non sono d'accordissimo, ne parlavamo la settimana scorsa, nelle ultime 10 partite il Bologna era terzo. aveva ripreso a correre, a fare punti, soprattutto in trasferta. Dopo una dopo una drammatica pausa, un corpo centrale del campionato informe, dopo la Cremonese. Sì, quindi non esattamente, cioè, tutta la stagione. Non una stagione eclatante, ma neanche un fallimento. La classifica è veritiera al 100%, e poi sei arrivato ai quarti di Europa League eliminando la Roma. Non è che potevi fare più di tanto. Probabilmente. Sei arrivato in finale Supercoppa. Hai fatto la finale Supercoppa, hai fatto, secondo me non è una stagione, stiamo parlando di Bologna, non della Juve o del Milan. Ma ti ripeto, ma perché gli ultimi due anni sono stati over performance clamorose, cioè a livelli altissimi, ecco perché sembra che quest'anno sia stata brutta, mi spiego? Adesso, il tema è, queste cinque partite servono all'allenatore che è presente per studiarsi la stagione prossima? Secondo me si è consumato, sai. Oppure... andiamo proprio completamente a ballare, a quel punto rischi di non finire neanche ottavo. Secondo me la prima, le altre sono vicine. Secondo me non si è rotto niente a livello di rapporti, secondo me semplicemente si è consumata la candela. Cioè, secondo me semplicemente è molto probabile che ci sia un ciclo che va a. Un ciclo tecnico proprio che va a terminare. Cioè, è la cosa più regolare che possa succedere in una squadra di calcio. Ok? Cioè, quanto tempo è che c'è italiano? 2 anni, 3 anni, quanto tempo è? È andato ai massimi livelli, ha corso tantissimo. Probabilmente è semplicemente la fine di un percorso logico, oppure c'è soltanto bisogno di rinfrescarsi le idee, di capire cosa fare. Ecco perché è importante. Questo che adesso noi scherziamo è il periodo in cui si cazzeggia e non c'è più niente da avere in classifica. È in realtà il momento più importante per Sartori, per la proprietà a Bologna, diciamo. Ai piani alti è questo il momento, sono questi 10 giorni qua in cui devi capire bene. Vediamo Sartori cosa fa, vediamo che cosa decide la società. È interessante. Io non credo che italiano resti ancora. Una parte, appunto, uno dei temi è chi va via delle squadre che stanno sopra il Bologna. Perché ci sono molti stracci che volano, in posizioni di classifica, diciamo, sexy, cioè squadre di alta classifica che comunque hanno ambienti corrosi dal diatribe interne o da risultati che non sono arrivati banalmente. E comunque italiano credo sia il quarto allenatore più pagato d'Italia. Ormai c'è il suo stato. Terzo, cioè, 3 milioni lordi di prendere. Ormai c'è il suo stato. È uno dei più pagati, la Serie A, quindi è ovvio che può essere che c'è il grande tema primo della nazionale, chi ci va in nazionale se libera un buco. Se conosco i miei polli, e li conosco i miei polli, finirà tutto in una situazione facilissima in cui Baldini se la caverà benissimo nelle 2 amichevoli che farà a giugno. E quindi verrà licenziato. No. E quindi il sentimento comune sarà: vabbè, ma è stato bravo. Teniamo Baldini. Perché non ce lo teniamo su? Vedrai che andrà così. No, io invece mi immagino che andrà così. Baldini andrà benissimo nelle amichevoli fino a là, e Conte diventerà allenatore della nazionale. Per non raccogliere. Lo so, non lo so. Vedrai che riconosco i polli, vedrai. Ci ascoltiamo una traccia. È finito tutto, l'hai guardato. E ci ascoltiamo una traccia. Che colpo di scena, che bravo regista. Bravo. E poi Top 5. Mi ha guardato. Buttiamoci dentro alla seconda parte di Caffè Paglia, quella dedicata alla Top 5. Che questa settimana va a cercare, a guardare le panchine in generale, le panchine, gli allenatori poco citati all'interno della Top 5. O anche troppo citati dal racconto mainstream dello sport italiano per eccellenza, inspiegabilmente, visto che è dove non raccogliamo, perché non abbiamo seminato. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria. Solitaria, sì. Diceva così lo poeta, lo maestro Franco Battiato, parlava dell'estate di Antonio Conte, forse. Può essere, chissà, è un'estate un po' particolare quella di Antonio Conte, perché quest'anno il Napoli ha, credo, arrivato 30° nel girone di Champions League, può essere? Sì, 30°. 30°, cioè veramente. Su 36. Su 36, non che fossero, no? 60. È veramente un risultato da un punto di vista anche economico, perché arrivare 30° vuol dire che hai fatto pochi punti in Champions League, ogni punto ti dà soldi, quindi proprio male. È stata veramente la campagna europea peggiore, diciamo così, della stagione. Bologna è arrivato 28esimo, se non sbaglio, l'anno scorso. Sì. 27. 27esimo. E Napoli 30esimo. Con costi abbastanza differenti, diciamo così. E per Conti, appunto, arriva dopo il primo anno. Io continuo a dire, lo scudetto l'ha perso l'Inter più che vinto il Napoli, però rimane che ho controllato l'Albo d'Oro e il Napoli ha il secondo scudetto in 3 anni. Sì, tutti si dimenticano di dire che l'Inter l'anno scorso ha giocato 20 partite più del Napoli, però sì, l'ha perso l'Inter, come dici tu, e lo scudetto l'hanno vinto loro. Nel senso che loro sono stati lì, non avevano le coppe, non, era il Conte senza coppe che... a questo punto potrebbe venire. Ma guardano anche il Bologna. Napoli l'anno scorso, cioè, c'è una squadra senza coppa. Il Napoli l'anno scorso ha fatto di tutto per perdere lo scudetto. Ci ha provato. Noi abbiamo fatto peggio, con un finale di stagione dovuto anche all'eccessivo numero di impegni, derby di Coppa Italia, Bayern Monaco prima, Barcellona, tante partite, abbiamo sbagliato quelle in campionato, tipo quella con la Lazio, un rigore clamoroso non dato su bis che Inter Roma, va bene. E insomma alla fine il Napoli l'ha portato a casa, così rimane questo il fatto. L'anno scorso posso dire, comunque... non si può dire neanche questo, Simone? No, se no, per carità, puoi dire quello che vuoi, da campione d'Italia, no, perché ormai in pectore. Mi guarda perplesso. No, comunque è incredibile l'egemonia culturale delle strisciate in momenti di crisi della narrativa sul calcio italiano, talmente forte da togliere spazio in top 5 ad Antonio Conte, che con una formazione molto vicina a quella tipo, perché i lungodegenti sono lungodegenti, ma ieri c'è McTominay, c'è Lobotka, c'è Anghissà, c'è una formazione, c'è Højlund là davanti, la formazione del Napoli è quella tipo, si fa camminare sopra dalla Lazio. Non ha tirato in porta, non succedeva, non mi ricordo da quanti, da 20 anni, tipo. Mai, non ha mai tirato in porta. E la Lazio cammina sul Napoli, non calpesta, ci corre sopra, cammina. La Lazio che giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia in casa con l'Atalanta dopo il 2-2 di Bergamo, quindi potrebbe anche arrivare in finale per di Coppa Italia. Per la Lazio, più, ancora di più che per l'Atalanta, potrebbe essere veramente una grande occasione. Maurizio, poi la Lazio, per Maurizio Sarri, stagione. La Lazio, cioè, con finale praticamente in casa, perché cioè, la finale in casa e di Coppa Italia comunque la Lazio l'ha vinta. La viene vincendo. Ogni tot anni la Lazio si presenta in Inzaghi, il Simone Inzaghi dell'Inter vinse un paio di Coppa Italia, credo, anche alla Lazio, e quindi insomma non è una coppa che conoscono poco. Hanno l'occasione, è ovvio che anche per l'Atalanta è un'occasione grossa, l'Atalanta che ha messo finalmente l'Europa League nella bacheca, ma ancora la Coppa Italia gli manca, credo che hanno perso un paio di finali. Paio di finali, sì. Quella... Con la Juve e con la Lazio, proprio, se non sbaglio. Sì, due finali perse. E, dall'altra parte Inter Como che si giocano domani? Domani sera. 0-0 all'andata, quindi vediamo, sarà una bella partita. Comunque ieri masterclass di sarrismo, tridente di brevi linee, non proprio, però affidandosi alle ripartenze, facendo un 33% di possesso palla e facendo di fatto la partita contro il Napoli. Un po' spuntato, un po' sulle gambe, privo di idee, tante cose che non vanno, e c'è anche il lusso di Zaccagni che sbaglia un rigore, si fa ipnotizzare, glielo para, bravissimo, il migliore in campo dei suoi, nonostante i due gnocchi presi, Vanja Milinkovic-Savic. Che secondo me non è un grande portiere. È un grande portiere para rigori. Grosso, statico, fermo, lungo. Allora, ho visto le immagini, dopo che pare il rigore, come sa fare lui, occupa tutto lo specchio della porta, fa una parata 5 minuti dopo su un tiro che arriva in diagonale, e lui fa l'unica cosa che un portiere non dovrebbe fare, che ti insegnano tipo negli esordienti, tiro nemmeno troppo forte, lui fa, invece di fermarlo, perché non era nemmeno così difficile, la rimette direttamente al centro, cioè tiro la diagonale, lui la respinge verso il centro della porta dove c'erano 7-8 persone. È quel tipo di portiere che mi rendo conto che a livello scenico dice, ah cazzo, questo è un portierone, occupa bene, ti può parare 2-3 rigori all'anno, però come fondamentali tecnici secondo me è molto distante pure da Meret stesso. Anche da a me manca quello che c'ha Milinkovic, cioè quella cazzimma un po' sfrontata che deve avere il portiere. Rich. Se si chiamasse Beretovic. Dovrebbe avere. Perché sai, i porcieri devono sempre avere quella dose di strafottenza. Coscienza. Bravo, esatto, un po' di. Lui para i rigori, non tanto anche perché. Anche Meret è un para rigore, attenzione. Che anche non perché è tecnicamente forte, ma perché mette paura al tiratore. quando lo vedi davanti occupa così tanto, è grosso, beh, poi è cattivo, sta barba, se, dice, se mi fai gol dopo vengo a prenderti dallo spogliatoio, ci vediamo io e te, occhio. E quindi lui in questo mette, secondo ma me, posso dire, perché il discorso era più largo, Milinkovic Savic è quel giocatore che rappresenta un po' tutto il calciomercato, secondo me, confuso del Napoli, perché non hanno avuto le idee belle. Tu prendi Milinkovic Savic per fare nella tua testa un upgrade rispetto a Meret, ma Milinkovic Savic non è mai tecnicamente un upgrade rispetto a Meret, lo può essere la di Kazimba, ma non come portiere in sé. Tu prendi Noah Lang, che alla fine viene fuori che Lang dichiara lui stesso che ha avuto un gran rapporto con Conte e che è stato Conte a volerlo tantissimo a Napoli, e però non ha funzionato perché era un esterno, capito? Cioè, che non allora, era in grado di fare le due fasi che vuole, servono al gioco di Conte. È un'altra cosa, ragazzi, però ci sono dei film, lo conoscevamo noi, il giocatore, immagino, come diceva Mingo prima, ci sarà un cazzo di staff che guarda, immagini, no? Che sta prendendo decisioni. Anche lì, alla fine, Alisson Santos invece si rivela essere buono e faceva panchina a Lisbona. Vergara lo scopre all'improvviso solo perché muoiono praticamente, insomma, tutti a centrocampo. Cioè, questa gestione della rosa, che secondo me Conte e il suo staff non ha capito bene a questo punto. Auguri ad Antonio Conte, il prossimo allenatore della nazionale, no, di calcio, no, italiana. Ma anche no, ma anche in bocca al no, lupo per tutto. Va bene. Potrebbe essere comunque. E non so se sarà l'allenatore del Napoli. Ecco, siccome abbiamo parlato. È collegato italiano questo discorso qua. Potrebbe essere un po'. Se va via Conte, credo che la prima scelta. ADL è un grosso fan di Vincenzo Italiano. Siccome abbiamo parlato soprattutto sostanzialmente di portieri e di allenatori, partiamo da portieri e allenatori per raccontare una partita molto bella che è finita 1-1, il mitico punto che non serve a nessuno. La partita è quella tra Roma e Atalanta, dove i due migliori in campo sono i due portieri, lo possiamo dire con grande tranquillità. Parliamo di un allenatore sulla graticola, e siccome la top 5 è estiva e balneare, il punto si chiama Gasp alla brace. Eh beh, insomma, d'estate si fanno più barbecue e quindi anche io lui si fa venire una voglia. Lo so che tu ti metterai a grigliare per tre mesi consecutivi, maledetto che non sei altro, lo so, già ti vedo. È l'estate, così già è così. Ti vedo che grigli. Bravo, fai bene, vedi bene. E grigliamo anche un po' di Gasperini, che insomma la settimana scorsa avevamo parlato con l'uscita di Ranieri, un po' scomposta, diciamo così, verbalmente scomposta. Talmente scomposta che deve intervenire Totti da l'after in cui si trova da diversi anni a dire: vabbè, per il bene della Roma state calmi, cosa sono queste dichiarazioni, cos'è questa dialettica, mentre lui è in after da anni comunque. Per dire la gravità della situazione, Totti è quello lucido nella situazione. Esatto. Totti è quello lucido nella situazione. Bene, questa è la situazione della Roma. Mi emoziona molto come la rettitudine del Totti giocatore abbia come altro lato della medaglia il Totti che, dopo smesso di giocare, sbaglia semplicemente ogni cosa nella sua vita. Io gli voglio bene, Francesco, grande. Mi fa ridere il fatto che due persone di 140 anni, perché hanno 70 anni a testa, si mettono a bisticciare così davanti alle telecamere, risolvendo la tradizione. Cioè, esatto. Anche ieri. Mentre so, il datore di lavoro. Ambiente un po' così. Ma la cosa bella è che il datore di lavoro, cioè la proprietà della S Roma, è totalmente assente da questo dibattito. Sì, lo parla. Non c'è nei playoff, non c'hanno i playoff quelli adesso. Sì. Non è partito i playoff in America. Che c'hanno i Celtics, questi qua? Che Celtics è l'Atalanta. L'Atalanta e con le altre. Vabbè, insomma, ci avranno sicuro qualche dinastia, qualche franchigia americana in qualche sport. Si sono occupati, insomma. Vabbè, Krstovic inspiegabilmente in doppia cifra, che ti racconta un po' anche. Inspiegabilmente. No, è un signor centravanti, Krstovic, ma inspiegabilmente adesso, dai. Vabbè, che sia uno dei top tre cannonieri del calcio italiano, ti racconta anche il momento del calcio italiano, eh? Assolutamente sì, però il ragazzo. No, anche a Lecce faceva gol, non è che se l'abbiamo scoperto lei. Piuttosto fa molto strano avere un Gasperini così, che si emoziona così in lacrime ricordando l'epopea nerazzurra. Cioè, perché secondo me si è pentito di essere andato a Roma e di aver capito. È evidente, se piangi quella lacrima dava è evidente quello che dice Dado, ha ragione, è evidente che sono fatto una cazzata. Cioè, ci può anche stare, anche perché, ripeto, l'ambiente a Roma per fare calcio è veramente veramente veramente duro. tosta. Anche perché l'Atalanta togli i primi 10 giornate con Juric, era lì che se la giocava per la Champions. Il miglior procuratore del mondo è quello di Juric, spero che sia lo stesso di Tudor. Sì, che dici che riesce a farli lavorare entrambi. E secondo me, se c'era Gasperini al posto di Palladino, che che reputo un buon allenatore, non prendeva quell'imbarcata lì dal Bayern. Passava sempre il Bayern, ma non così. Può essere, insomma, effettivamente in Champions hanno preso l'imbarcata. Invece di 10 pallate ne prendeva 7? 6? Però magari, dai. Stiamo a guardare. Sì, era sì, più temibile, dai. Con però l'Atalanta con Gasperini era più temibile. Fa strano vedere il Gasp così. È un'annata due, è stata. Immagino che se, anche perché lui, era tremendo, non è che sia proprio. Cioè, esatto, morbido, morbido, nemmeno lui. Però, evidentemente, l'ambiente a Roma è tosto, è tosto. Comunque, il mitico punto che non serve a nessuno, in realtà serve a tutti, perché con quel punto l'Atalanta va a 54 e allunga sul Bologna. Era a più 5, va a più 6, perché il Bologna marca virgola. La Roma con quel punto addirittura aggancia il Como. Aggancia il Como dei miracoli, il Real Como, il Como delle meraviglie, viene agganciato dalla Roma nella sua ennesima stagione deludente per gli ultimi posti per l'Europa. Eh beh, il Como, insomma, dalla fine dal gol di Thuram, dal primo gol di Thuram in Como Inter sul 2-0 Como, sembra sia svanito, perché comunque hanno perso anche da quel 2-0 lì, esatto, dal gol di Thuram sul 2-0, un po' come bene. La Roma è scoppiata al pareggio della Juve, con Gatti, con Gatti, esatto, quello è stato il momento che mi ha azzoppato la stagione. Oddio, ti dico la verità, se io giocatore della Roma o di qualsiasi altra squadra mi vedo rovinata la stagione da un gol di Gatti e non mi ripiglio più, quello di, cioè, vado veramente giù con la capoccia. Hai ragione, sì, hanno ragione, posso giustificare, in questo caso sì. È una giustificazione, abbiamo buttato già un po' l'esca, ma non è così scarso Gatti, ma vai a cagare, per cortesia, per cortesia, non è che lì, non è che lì, ma non mi sembra il problema della Juventus Gatti, dai, oddio, no, questo magari no, però per cortesia, dai, tu. Notti magiche inseguendo un gol. Rugani ha giocato nella Juve, oh. Rugani top player di altri sport. Di altri sport. Pagina 260. Ma voi scherzate? Ma Rugani rispetto a Gatti a livello difensivo è Alessandro Nesta, ma voi scherzate? Vabbè. Altri sport è la pagina 260 del televideo, la facciamo nell'ultimo. Sì, non sono allenatori, non stanno allenando né Rugani né le Grottaglie, anche c'era la Juve. Mamma mia, brividi, notti magiche, perché abbiamo messo là un gancio a fine partita. L'altro ieri Cesc Fabregas era molto arrabbiato perché i ragazzi non hanno giocato come diceva lui e parlava dei ragazzi del Sassuolo. Guarda, Fabregas, tanto caruccio, tante belle cose, però posso dire che a me, come un po' tutti gli spagnoli, non è simpaticissimo, Cesc, in più anche... c'è la sua anche con gli spagnoli, no, soprattutto con gli spagnoli a livello empatia, gli spagnoli che girano in tuta, cosa ne pensi? A meno che se giocano nel Barcellona, cioè se sono dei giocatori del Real e Barcellona in trasferta, allora sì. Se non sei un giocatore Real o del Barça, allora mai nella vita. Ma non devi essere neanche l'Inglés, però questa è una cosa da calcio internazionale. Mentre invece Fabio Grosso e i suoi Regaz la incartano molto bene al Como delle meraviglie, il Como dei miracoli, il Real Como, che comunque ci importa tutti a spasso. Mi fai trattenere. E fortunatamente Nico Paz segna, aumentando il suo valore di altri 80 milioni di euro. Fortunatamente Turati tiene fuori dalla porta un'altra cosa stranissima di Nico Paz, che avrebbe aumentato di ulteriori 80 milioni il suo valore. Posso dire una cosa? Altro però. Portiere Turati, cresciuto nella cantera interista, eh? Ha vinto pure un cambiato col Frosinone. Era nel Frosinone di non me ne so se è proprio di Grosso, sì. Però, okay. Prese gol da Di Marco, il famoso gol, quello che in realtà voleva corsare, ma poi gli uscì quel gol pazzesco, era Turati, Di Marco, è procuratore di Di Marco, cioè, non si spiega come faccio a ricordare tutte queste cose, però volevo dire soltanto una cosa. I due gol del Sassuolo, soprattutto il secondo di ieri, sono veramente una figata, perché con tre tocchi tutti verticali, soprattutto c'è Matic, che mi risulta abbia 45-46 anni, che letteralmente a centrocampo porta a spasso Baturina e un altro gioiello del Como, ma proprio li porta a spasso, tipo, sai, pensate, tipo Guinzaglio uguale, e poi va di dritto verticale, non mi ricordo chi fa da perno centrale, altro tocco in verticale, insomma con tre tocchi dritto fanno letteralmente a metà l'intera organizzazione e struttura difensiva del Como dei miracoli di Cesc Fabregas, e vanno poi in gol con Zola, mi sembra che era tu, ed è, ti dà la taratura tattica di una squadra, di un allenatore che secondo me è l'unico della generazione d'oro del 2006, che poi è quello più, no? Il rigore, il rigore procurato con l'Australia, il gol contro la Cina, quello che proprio spicca di più nei ricordi di tutti noi. È l'unico dei ragazzi del 2006 che in questo momento mi sembra davvero un allenatore di calcio, che ha già portato risultati, perché siamo a due campionati di Serie B vinti in modo molto brillante, una salvezza tranquillissima con il Sassuolo, che comunque era come organico una squadra da metà classifica. Adesso non è, nessuno poteva pensare che il Sassuolo lottasse per non retrocedere, perché l'organico era proprio buono. E però insomma tu il campionato poi lo devi fare. È andato male solo in quella situazione di merda che sarà venuta a creare Lione, presi a sassate dai suoi stessi tifosi, insomma non era, no, il momento giusto, marsigliesi. Non era proprio la situazione perfetta. E invece in rampa di lancio, soprattutto perché è il nome più gettonato per voi altri, questo è insieme a Daniele De Rossi, che ha ufficialmente salvato il Genoa. È riuscito, è entrato in una situazione molto difficile e c'è, cioè, riuscito, quindi i due, De Rossi e Grosso, diciamo così, sono i due che... Un po' più strutturati, esatto. Derby delle Repubbliche Marinare, il Genoa si salva all'Arena Garibaldi in casa del Pisa. Pisa che, ciao ragazzi, è stato bello, esatto. Vi ricordiamo con affetto, vi vorremmo bene lo stesso. Vedremo, non ho capito bene quale progetto ci possa essere dietro il Pisa. 10 punti del Verona, 18. Avete visto il gol di Cristian Volpato ieri del Sassuolo? Perché quello è un altro della ninghiata della Roma primavera, che ne tira fuori a getto continuo. È un bel mancino, è uno di quei ragazzi che io spero Baldini faccia entrare nel giro di quei 30-40 giocatori che devi cominciare a sgrezzare. Vediamo. Ok, Volpato, cos'è, il prestito è tutto del Sassuolo? Del Sassuolo. È stato venduto, quindi insomma il tema è anche delle grandi squadre che non riescono poi a tenere i giocatori che creano. Ma sì, e soprattutto cominciano ad andare in tanti verso l'estero, dovremmo fare una puntata speciale solo su, perché cominciano a essere veramente tanti quelli forti che vanno all'estero. Speriamo che continuino a farlo. Uno se lo dimentica, no? Poi Ruggeri, era buono Ruggeri. Sì, vale a dire Gattuso che non ha mai convocato. Cioè questo ha cancellato dal campo Yamal e per Gattuso perché lui si ricordava di un Ruggeri argentino. Ai tempi di Maradona c'era un difensore. Non era male neanche lui, non era fortissimo, però non era nemmeno male. Però era nazionale argentino, dice Gattuso, dice sarà il figlio, non posso mica convocarlo. Estate è mete esotiche, per noi è esotica la Spagna, da dove arriva Carlos Cuesta, l'antigiochista per eccellenza, brutto, sporco e cattivo. È esotica anche la Serie B, da dove arrivano suggestioni niente male, nel modo in cui si mettono in campo le squadre. Ora, noi abbiamo detto tante volte da questi microfoni, una squadra che si deve salvare, l'ultima cosa che deve fare è provare a giocare a pallone, ma mi sembra che questa stia un po' esagerando. Masterclass ieri, gol da tre punti che arriva in un modo incredibile. Pellegrino fa 50 minuti di sportellate, mazzate, toccando pochissimi palloni, facendo un lavoro proprio da traslocatore. Viene sostituito, entra Nesta e il Fege. Cabaselli se lo perde perché lo guarda, ma chi è questo? Ma dove era prima? No, se lo perde, fa un gol della Madonna. Piede per voi che giocate a basket, voi che conoscete il basket, fa un gol della Madonna, ragazzi, diciamo cazzate. Fa un movimento veramente da centro del basket su se stesso, usa lo stesso piede e poi batte il portiere. Dai, raga. Aveva fatto assist per Strefezza nel pareggione fatto strappato al Napoli settimana scorsa, e segna finalmente Nesta del Fegge, che si chiama come un wrestler qualsiasi. Un wrestler del momento si chiama Obafemi, fai tu. Lui si chiama Nesta di nome. Nesta di nome. Nesta. Nesta di nome, come gli lo diamo il nome? Cara, che nome gli diamo a questo bambino che sta per nascere? Anzi, no, appena nato, perché il nome lo dai quando nasce, esatto. Il bambino, no? C'ha la faccia da Nesta, e si chiama così. E possiamo dire che nella lotta salvezza il Parma è proprio blindato, cioè possiamo chiamarlo fuori dalla contesa anche lui. Però io stando a parlare troppo male di Carlos Cuesta, posso? Allora, lo vedo anche io che è un allenatore che tende a prediligere, diciamo così, l'organizzazione difensiva in toto, ok? Però io vedo anche che questo c'ha 30 anni, è uno straniero in terra straniera, e la terra straniera che lo ospita è particolarmente cattiva verso gli allenatori appunto stranieri. Voglio portare l'esempio di trattamento riservato a Fonseca quando allenava il Milan, o facciamo finta di non ricordarci l'atteggiamento dei giornalisti, di tutta l'accademia covercianesca italiana verso un qualsiasi allenatore straniero in Italia. Aspetta, però il Milan ha fatto il capolavoro di ingaggiare strapagandolo un portoghese scarso per poi sostituirlo a stagione in corso con un altro portoghese ancora più scarso della stessa agenzia di procuratori. Quello che vuoi tu, però Fonseca, che tra l'altro in Francia sta facendo i peggio numeri, ieri ha fatto letteralmente a pezzi pure il Paris Saint Germain, poi ne parliamo bene, ok? Però, cioè, ripeto, questo è un trentenne che debutta in un campionato difficilissimo a livello tattico, tu devi veramente pensare soltanto a non prenderle, e questo a me sembra invece un allenatore che è entrato nella capoccia dei giocatori, e non è facile da esordiente assoluto trentenne, perché all'inizio i giocatori che sono più vecchi di te, tra le altre faccende, è un giocatore che ha valorizzato tutta la rosa che c'aveva, e vi invito chiunque di voi a dire: oh cazzo, questo è un fenomeno, indicando un giocatore nella rosa del Parma, uno. Ve lo chiedo proprio a voi, perché forse non ci rendiamo conto chi sta allenando questa. È vero che hai Nicolussi Caviglia, che hai Strefezza, poi c'hai Bernabé, lo capisco, tutti ottimi giocatori, ma eccoli, sono questi. Gli altri, facciamo fatica a ricordarci chi sono, ha valorizzato Del Prato. Del Prato. Cioè Del Prato, che non è un ragazzino, però è un giocatore che quest'anno ha avuto un upgrade clamoroso a livello di prestazioni, ed è tutto nelle mani di un allenatore trentenne debuttante. Non è facile. Non è così semplice come... È vero, ha preferito organizzarsi a livello difensivo, ma voi che avreste fatto al posto suo con questa rosa qua, dove la prima mission è salvarti? Salvarsi. Se sei stato bravo, ti salvi alla fine. La meraviglia del calcio mesozoico di questa, che comunque marca 39 punti e possiamo chiamare il Parma salvo, stiamoci. Questo è 3 punti, li abbiamo dati noi con gioia. È il Traktor Sito Ordoñez che tira uno scaldabagno a fine gara proprio clamoroso. E chiudiamo la top 5 ringraziando colui che ha fatto venire l'estate, tipo la danza della pioggia al contrario, ha accorciato la linea del tempo per far finire anzitempo il campionato di calcio, e parliamo di un altro Nemo profeta in patria, di un altro allenatore straniero ormai molto italiano nei modi e nei metodi, che comunque con una squadra che sembrava fine ciclo sta vincendo il campionato di calcio con 1000 giornate d'anticipo, e in testa alla nostra top 5 c'è Christian Kibu. Non era neanche la prima scelta dell'estate scorsa, avevano provato a sondare Fabregas, gli intertristi dicevano: ha solo 13 partite in Serie A, andrà malissimo, arriveremo quinti, sesti, staremo fuori dall'Europa, e invece sta stravincendo uno scudetto, può essere anche che vinca la Coppa Italia, male in Coppa, però non si può avere tutto, e dopo una stagione come quella dell'anno scorso i tifosi dell'Inter giustamente si godrà questo scudetto, cioè, economicamente per la società è andata meglio la stagione scorsa, perché tanto vincere o no lo scudetto cambia poco, andare in finale di Champions cambia, i soldi cambia molto, però penso anch'io, per un tifoso, meglio vincere lo scudetto che poi arrivare in finale di Champions e perdere 5-0, questo è un po' la situazione. Siamo arrivati al termine, non abbiamo più tempo, fra poco calcio internazionale. Rientriamo in diretta con questa terza parte di Caffè e Paglia, la parte dedicata al calcio internazionale. Ecco la base che arriva. Calcio internazionale. Da dove partiamo, calcio internazionale? Partiamo dalla Real Sociedad. Oh, ma che bello! Che belle le immagini che arrivano dalla Spagna. Che finale di Coppa del Re, cioè la Coppa di Spagna, insomma, l'equivalente della Coppa di Spagna. E la vince lo basta. La la la la la la. E festeggialo così. Sentilo oggi. E festeggialo così anche. È vacanza. Tutto un po' in vacanza. Sì, Real Sociedad che batte l'Atletico Madrid, tra l'altro. Gran partita, bellissima partita, gol spettacolari, gesti tecnici. Finisce 2-2 nei 90, se non mi sbaglio. Sì, perché la vince ai rigori. E poi vince la lotteria dei rigori. E niente, tutto molto bello. Quando una squadra basca vince è ancora tutto più bello. Capitano Oyarzabal, la leggenda Oyarzabal, va a sollevare la coppa. E se volete un nome e se volete un cognome che inquadri il trionfo biancazzurro, si fa il nome e il cognome di John Martin, questo 19enne difensore centrale, di quelli di una volta, cioè di quelli cattivi, di quelli che c'è proprio bisogno del duello, però sono anche cattivi sul primo pallone, ci puoi contare sul primo pallone, come diciamo nella ricostruzione, nel passaggio, è bravo anche andare a cercare il filtrante tra le linee, c'ha il coraggio, ma soprattutto è proprio un difensore, cioè di quelli che c'ha proprio bisogno del corpo a corpo, che ti sfida in velocità, è un difensore che non aspetta la mossa dell'attaccante, ma è di quelli che vanno proprio anche nel primo movimento andà stuzzica il dirimpettaio, è il difensore con l'istinto proprio sul pallone, violento, cattivo, è un Mario Gila ancora un po' più alto, forse ancora un po' più esplosivo. E so soltanto che la Spagna si ritrova una batteria di centrali con John Martin e Cubarsi, che sommati hanno 36 anni, con Mario Gila che non è neanche titolare, ce n'ha 23, con Lenormand incredibilmente snobbato dalla Francia, che vabbè la Francia è fortissima, ma un difensore così non ce l'ha come caratteristiche, dico, e si ritrova una batteria di centrali, ragazzi, veramente veramente forte forte forte, molto contento. Matarazzo, allenatore a Stars and Stripes, stelle e strisce, che vince, non so quanti allenatori americani hanno sollevato un trionfo abbastanza importante come la Coppa, non ne ricordo, esatto, quindi anche il calcio americano comincia a mettere qualche cosina in bacheca, anche se soltanto a livello singolo, palle pure nel calcio. Guarda che se questi adesso c'hanno Pochettino in panchina, che è già un accenno di allenatore, vediamo se riescono a sistemare un paio di cose a livello organizzativo, se formano meglio i propri tecnici, perché la qualità a livello giocatori è piena, è molto scarsa a livello di preparazione dei propri coach, se rimediano lì hanno tutto per fare, insomma, un ottimo movimento. Comunque un abbracciatone ai ragazzi di San Sebastian, che vincono meritatamente una coppa, la coppa di quel buffo del re di Spagna, tra l'altro, questo vale doppio vincere da contro l'Atletico, dedicarla ad Aitor Zabaleta, tifoso della Real Sociedad, ucciso da nazisti tifosi dell'Atletico Madrid diversi anni fa, nel 98, il giro di campo della coppa con la maglia numero 12 è per lui, ed sì, è vedi, molto bello. Le cose che succedono solo in Spagna, cioè c'è una sinistra che vince, cioè tu, e tra l'altro era tutta la settimana che tutti i tifosi, anche l'Alavés aveva fatto vincete per Aitor Zabaleta, perché giocavano proprio in questa finale contro la stessa squadra. Oh, nonostante le gufate hanno vinto lo stesso, lì può succedere, qua da noi un po' meno. Comunque, per quanto riguarda il campionato, mi sembra che ormai le situazioni siano definite, c'è comunque una spagnola in semifinale di Champions, sono quattro di quattro nazioni diverse, non a caso i quattro campionati che seguiamo. C'è anche il Rayo Vallecano che giocherà contro lo Strasburgo. Sì, ecco, il Rayo, ecco, l'Atletico Madrid è la spagnola, una francese, una tedesca e un inglese. Sembra una barzelletta. Ma indovina chi è gli unici scemi che mancano? Indovina chi è? Prova soltanto a immaginarlo. Che di solito erano i guru della barzelletta, cioè quelli che i figli della barzelletta. Quindi esatto. Manca la soluzione alla barzelletta. Comunque posso solo dire una cosa veloce e poi mi taccio un attimo. E torneremo, perché merita di più, un approfondimento su quello che secondo me è cambiato. Forse è più bello da guardare, parlo d'Europa proprio, la Serie B spagnola. No, lo so che può sembrare ironica, però anche la Serie B italiana, cioè bisogna fare un discorso molto approfondito sulla nostra Serie B e su quella spagnola, perché succedono cose, perché ci sono tanti, tanti, tanti bei giocatori, ci sono tanti, tanti bravi allenatori, bisognerà dedicargli un po' di tempo. A toda B. Potrebbe chiamarsi questo. Dopo parliamo un po' di Serie B, Dai, un po' di Serie B, anche spagnola? Anche spagnola, sì, perché ci sono qualcosa da dire, c'è. Bene, bene, bene. Parliamo subito, scusate, della Bundesliga, visto che è finito ufficialmente il campionato. Allora, io volevo iniziare il pezzo sulla Bundesliga parlando di una squadra normale che può anche perdere le partite come una squadra normale, che è l'Union Berlino, che fa debuttare la sua coach Marie-Louise Eta, esatto, con una sconfitta contro il Wolfsburg, che è penultimo in classifica in casa, 1-2. Esattamente come ti aspetti da una squadra normale. Però veniva dalla sconfitta contro l'ultima in classifica, contro l'Heidenheim, quindi è proprio un periodaccio, non so. È un periodaccio, sì. E comunque la partita l'ha fatta l'Union. Cioè, se vedete l'economia della gara è dell'Union. Aggiungiamo, è già è già abbastanza da parisiano come sarà esposta. Se però la coach Eta si ritrova a essere diventata l'allenatrice a due giornali dalla fine, è perché evidentemente prima qualcuno qualcosa era rotto, no? Insomma, parliamoci qualche problema c'era, quindi sì, insomma, il Bayern ha stravinto anche la matematica, la matematica. L'unica prima dell'Inter a vincere, ecco, diciamo così. 109 gol in 30 partite hanno fatto questo. Sì, una macchina da gol. Ha avuto un po' di brivido anche la semifinale con il Real Madrid, perché per come era iniziata, dico, vedi Michael, il Real Madrid. Amico mio, è il Real Madrid, quello, cioè, il Real Madrid in Champions è qualcosa per cui abbiamo finito pure il campo semantico dove andare a cercare gli aggettivi. cioè bisognerebbe crearne un altro di altri significati, un linguaggio economico, perché è appunto il Real Madrid. Non mi sarei mai aspettato di avere una partita dopo quell'andata. Sì, è il Real Madrid. Io quando c'è il Real Madrid, infatti, di me, sì, quando c'è il Real, e soprattutto cominciano a essere, so, quarti, semifinali. Dare il Real Madrid, se tu stai 3-0 al 90esimo con il Real e ci sono 3 minuti di recupero, tu non sei al sicuro. Non sei ancora sicuro. Tu puoi ancora pareggiare 3-3. È quella, il Real Madrid è questo. Nell'allineamento astrale di quella partita, io segnalo una grande prestazione dell'arbitro Vincic, che espelle Camavinga perché si era scordato di averlo appena ammonito. E aggiungo, non succede praticamente mai. Però perché l'ha ammonito? Perché calciavano sempre via il pallone, lo fanno sempre. Attenzione. Loro, Non si piange mai su un torto arbitrale del Real Madrid versato, ok? Mai. Perché? Perché non succede, è come la cometa di Halley, cioè, tra 80 anni rivedremo sarà un'altra, sì, fischiata dubbia contro il Real Madrid. Quindi insomma, questo è, vedremo di là Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Non abbiamo parlato delle due semifinali, e Atletico Madrid Arsenal, comunque sfide interessanti. Posso dire due bellissime partite. Sì, entrambe partite. PSG Bayern finale anticipata, sì, sulla carta, essere, poi può anche essere che vinca quella che esce di là, chissà. Non mi sembra che l'Arsenal invece sia in grande spolvero. Tra l'altro, non abbiamo iniziato dalla Premier League, ma c'è stata la grande sfida, Manchester City-Arsenal. Una grande pagina di Utopia Gunners. Mamma mia, non so, io non so più neanche che pensare dell'Arsenal. Cioè, l'Utopia Gunners è quel fenomeno per cui un tifoso dell'Arsenal cita in giudizio il club accusandolo di avergli causato disturbi del sonno, attacchi di stress, crisi. Panico, okay? Perché? Ansia. Perché a un certo punto sembrava che tu avessi ammazzato il campionato, e invece. Invece no, è un periodo assolutamente nero. Credo siano 4 sconfitte nelle ultime 5 per l'Arsenal. Una situazione di ampiamente prevista da tu. Ovviamente ampiamente prevista. Volevo rincuorare il ragazzo tifoso dell'Arsenal. Gli volevo dire che tu non sai cos'è il dolore se non hai mai tifato quella sera. Cioè, quindi stai calmo, c'è uno stadio bellissimo, in una città fighissima, una divisa stupenda, tutto molto caro. Vuoi anche vincere, buone, no? Dai, dai, buone, dai. No, non è che vorrai anche vincere. Certo che loro però c'è tanta roba. In questo momento credo siano a 3 punti, con una partita in più, quindi potenzialmente pari, 9 punti nelle ultime 5 per l'Arsenal, passo zoppariello. E ragazzi, che dire, è una squadra che ha paura, una squadra che fa la partita. Donnarumma gli regala il gol del momentaneo pareggio e poi però blinda la porta e diventa assolutamente insuperabile per il bell'attacco dell'Arsenal. Ma non prendi mai fiducia se non ti gira niente, se fai dei pali interni e la palla non entra mai. Diventa così una squadra che ha paura, che poi in Coppa affronterà la rivale peggiore per una squadra che ha paura, cioè una squadra che ha dei grossi limiti, ma che però anche lei, in quanto a sfiga, sfortune, sfortune, sconfitte di quelle da trucidarti l'anima, non butta male. Ma perché Joker è entrato in finale di partita? Non lo so, non lo so perché. Comunque, formazione dell'Arsenal mi ha lasciato un po' così, con Havertz, unica punta. Non, no, Havertz è quello che di solito gli fa il gol che decide, è molto importante nei momenti che forte, contano. È lui che segna, lui che poi segna. Ecco, a proposito di estate, abbiamo parlato prima della top 5 estiva, quindi si sente già oggi c'è un po' di sole e un po' di caldo. Il gol Donnarumma Havertz mi ricorda molto il biliardino. Non so come lo chiamate voi, la fotografia. Noi il flash lo chiamiamo, sì, il flash. Vedi il flash, quello lì. Sì. Pepem, t'attacca. Secca, mi ha ricordato molto l'azione del biliardino. Però dopo Donnarumma fa 2 o 3 parate veramente importanti. Su Donnarumma c'è un paradosso, perché è effettivamente ad oggi l'unico giocatore di livello internazionale massiccio che il movimento italiano può esibire, perché è veramente l'unico. E però è anche l'unico che c'ha una certa concorrenza interna, perché anche ieri l'uscita, a un certo punto Carnesecchi, che secondo me in Italia oggi è nettamente più forte per quanto riguarda le uscite basse, le uscite in generale, ma su quelle basse è veramente spaziale, ed è incredibile che l'unico che è degno della maglia azzurra, che c'ha anche un 2, c'è anche quello dietro che abbiamo 2 forte. Dovremmo provare a giocare con 2 portieri, non so perché il portiere non è mai stato un problema. È vero, sì. Almeno si diceva anche della difesa, una volta i difensori non abbiamo mai avuto problemi, però. Attenzione, secondo me c'è tantissima qualità, soprattutto nei centrali del futuro dell'Italia, i vari Reggiani, Natali, e Leoni, e Scalvini, e Anor. Guardate che questi sono dei centrali veramente forti, forti. Noi abbiamo pagato gli ultimi 5-10 anni di confusione, tantissima confusione a livello tattico, perché i terzini sono dovuti diventare tutti braccetti, e il centrale ha dovuto tutto spostare sulle mezze misure per farli diventare dei braccetti adattati, e poi, oppure l'ultima mode, so che i centrali diventano terzini. Poi è arrivato Guardiola, fa: non ho mai vinto la Coppa, che cazzo mi invento? La vinco con 4 centrali difensivi in difesa e li metto pure sugli esterni. Cioè, molte modifiche del ruolo, molti adattamenti. Guarda su Bastoni, senza che si incazzi il nostro Dado, ok? Lo porto solo come esempio. A volte sembra un fenomeno, a volte sembra veramente Beckenbauer, la partita dopo sembra l'ultimo scemo arrivato. Sì, sì, non ha. Ti spiego quello che vuoi dire. Eppure il giocatore è sempre lo stesso. Questa difesa a 3 è molto spinta, soprattutto in Italia. Soprattutto l'interpretazione che diamo noi in Italia rispetto al 3-5-2 che danno all'estero, che è molto più offensivo, ti crea queste situazioni in cui il giocatore a livello tattico cresce un po', non si capisce bene se carne o pesce, però la qualità c'è. Io volevo segnalare che comunque dopo le grandi fatiche del giovedì l'Aston Villa vince 4-3 contro il Sunderland, doppietta e assist di Watkins, bolla anche Tammy Abraham. Vabbè, e comunque in questo momento è a 10 punti sopra il Chelsea, che vuol dire che è già in Champions. Gol della vittoria Tappi, se non credo. Se non sbaglio. Abraham. Sì, 4-3 perché sono andati, erano 3-1 l'Aston Villa, poi 3-3. E poi nel finale l'Aston Villa riesce a vincere 4-3 e comunque merita la Champions. Poi potrebbe anche vincere l'Europa League e entrare in Champions anche da quel posto. Torniamo dal pasto ad una accenda che avevamo fatto inizio puntata, perché se c'è un allenatore caldo come nome quest'anno è proprio quell'Irarola del Bournemouth, perché Bournemouth, ragazzi, è una squadra che esprime sì l'organizzazione, sì il palleggio quando ti serve, ma poi quando devono andare in verticale, cioè ci vanno veloci, ti vengono ad ammazzare non per una via centrale, ma sembra addirittura che una delle poche squadre, a me dà sempre l'impressione che riesca a scavarsi almeno 2 canali centrali dove venite fatti male. Non so come cazzo facciano a livello di rotazioni, però ti fanno sempre male da quel punto di vista lì. Quindi un grande allenatore, si dice, si mormora che sia in orbita Real. Perché Real è la squadra che cambierà. Invece se parlavamo prima durante la top 5 del possibile domino legato alla nazionale italiana e alcune big del campionato, la big europea per eccellenza, credo che cambierà l'allenatore. Lo cambierà sicuramente, e a questo punto io non ho la minima idea su chi andranno, anche se secondo me, per come abbiamo capito, che se tu metti un allenatore che vuole insegnare calcio, materia calcio rivoluzionaria, veloce, uno Xabi Alonso, che secondo me era proprio un allenatore divino, è divino come allenatore. E però con il Real non funziona, perché? Perché c'è uno spogliatoio fatto di gente che non puoi conquistare chiedendogli quel tipo di lavoro lì. Ci vuole qualcosa effettivamente di più vicino a uno Zidane, di più vicino ad un Ancelotti. E l'unica cosa che mi viene in mente, secondo me, è, dopo gli europei, Didier Deschamps. Secondo me è il fit che cerca il Real Madrid, è quel tipo di allenatore che cerca il Real Madrid. Vediamo. Un gestore del gruppo senza troppi elementi tattico-strategici da insegnare. E poi abituato a dove gestì praticamente 25 fuoriclasse, 25 potenziali futuri palloni d'oro, perché della Francia bisogna parlare in questi termini, perché se il Real Madrid c'ha 18 giocatori, 20 giocatori fortissimi, la Francia ce n'ha tipo 50. Tutti veramente incredibilmente forti. E quindi secondo me è uno di quei nomi con la nobiltà giù, anche perché Deschamps raga è pieno di allori, tra mondiali vinti da giocatore, europei vinti da giocatore, europei e mondiali vinti da o finali fatte da allenatore, è pieno di medaglie d'oro addosso Deschamps. È uno di quei nomi, secondo me, ma vediamo come va. Potrebbe essere un nome, anche lì qualcosa si sposterà. Stiamo parlando della Francia, andiamo a vedere il campionato francese, che ha la Paris Saint-Germain che perde. No, dico, vi ricordate quando parlavamo della Ligue 1 solo quando non vinceva il PSG? È uno di quei giorni. E attenzione, perde meritatamente contro quell'Olympique di Lione di Fonseca, appunto, di cui parlavamo a metà puntata. E adesso io non so la statistica, ma il Lione credo che negli ultimi 3-4 mesi può aver perso una partita e per il resto le ha vinte tutte. È in una striscia incredibile, è un giocatore, è in zona Champions, è in super zona Champions, è una squadra che ha fatto letteralmente esplodere quel talento immenso di Hendrick, che continua a fare gol e continua a fare soprattutto dei gol della Madonna. Questo c'ha un sinistro che è fulminante, cioè la velocità di esecuzione, la velocità di rilascio del piede di Hendrick è più veloce del tuo pensiero, che stai lì con lo guardi e dici vabbè adesso tira, e lui nel frattempo ha già tirato. E a me questo è quello che mi sorprende. Il gol che fa anche col PSG ieri, l'altro ieri, non mi ricordo che giorno è, mentre tu pensi ok la stoppata e adesso tira, lui l'ha già fatto. C'ha una violenza nel sinistro, c'ha una violenza nella velocità in cui pensa, è veramente clamoroso, sta macinando gol. E ieri fa anche l'assist per il secondo gol del Lyon, bellissimo anche il secondo, per Dio Afonso Moreira, che è un altro gioiello portoghese, se non mi sbaglio portoghese, ma mi potrei sbagliare, mi sembra di aver intercettato in qualche torneo giovanile, figurati, uno di quelli tanti che guardiamo. E questo è una squadra che va a mille, che è molto bello rivedere, no, il nome Lione lassù dove deve stare. E soprattutto io mi continuo a chiedere come faccia il Real a preferire Mbappé nella posizione di centravanti a posto di questo qui. È così. Continuo, ma poi sono qua che parlo in radio e quelli sono appunto realmente, sapranno loro quello che fanno. Ma se io fossi Real Madrid mi sarei già sbarazzato di Mbappé, avrei messo titolare per i prossimi 10 anni Hendrick a centro dell'area, e avevo già venduto pure i Vinicius, ma ero già di tutti i due i galletti che hanno distrutto la stagione, perché non vanno d'accordo quei due. Io mi ero già sbarazzato di tutti e due, anche perché in tutto questo tipo 500 milioni, una cosa del genere. Sono in tutto questo e Hendrick 2005 e Moreira 2006, cioè sono due ragazzi, parliamo di due ragazzi 2005, anche Moreira, però vabbè cambia poco. Ma guardate che il Real, ripeto, se io fossi il Real, se ci fosse qualcuno che ragiona nel Real, tu ti sbarazzi sia di Vinicius che di Mbappé, perché tanto non ti servono. Certo, questa è la situazione. Ligan, diciamo, con il Lens che ha ancora qualche speranza, ha una partita in più. Ha vinto al 93esimo con un gol di un ragazzo che si chiama Ismaelo Ganiu, che è passato anche dal Padova che è appunto in Serie B, e è un ragazzo di 21 anni, difensore, che la decide il 3-2 per mantenere qualche speranza. Ha un punto in meno in questo momento, ma anche una partita in più, sì, il Lens ha una partita in più del Paris Saint Germain, quindi insomma è un punto in meno in classifica, molto difficile, però insomma un'ottima stagione con il nostro Tovin che entra al 70esimo stavolta, non era titolare. Vi ricordate che dicevamo in inizio stagione, in cui facevamo i complimenti alla Liga proprio in toto, perché era rimasta senza copertura televisiva e avevano deciso di reagire all'avversità in che modo? Puntando solo sul pallone. Innanzitutto hanno cominciato a produrre, poi non so come hanno continuato l'evoluzione tecnica, però hanno praticamente deciso di produrre da solo le immagini che riguardavano e le partite appunto trasmesse dalla federazione stessa, dalla Liga stessa. Hanno tirato su un campionato secondo me a livello tecnico eccellente, perché è un bacino d'utenza, è un bacino che produce dei giocatori in quantità industriale, tutti fortissimi. E quindi vedi sto campionato in cui ancora non è vinto, dove la squadra è campione d'Europa in carica fortissimo, perché questo Paris Saint-Germain è la squadra della Madonna, dove, che però non ha ancora ammazzato il suo campionato, e anzi non è neanche detto che lo faccia alla fine. E è in semifinale, arrivando ballando praticamente in semifinale contro il Bayern Monaco. Cioè parliamo di una squadra veramente clamorosa, che però rischia di non vincere questo campionato. Questo ti racconta tanto le Paris Saint-Germain, ma anche tanto il campionato francese, della crescita delle altre. È certo, perché guardate che è un gran campionato, un campionato che produce lo Strasburgo, e ricordiamo sempre la squadra più giovane d'Europa, che è un gioiello di squadra, è un campionato che va applaudito. Perché, ripeto, qua da noi c'è ancora il grado di quasi superstar Rafael Leao, ma se cercate un esterno portoghese offensivo che ti faccia innamorare del pallone, tu devi andare a prendere Diego Moreira subito, anche se ormai comincia a costare tanto pure lui. Questo Diego Moreira era il giocatore che dominò da MVP le finals della Youth League con il Benfica 4-5 con lo Sporting Lisbona, ma con Benfica giocava lui. Esterno sinistro, così me lo ricordo benissimo. Dello Strasburgo dici? No, parlo di Diego Moreira. Ah, Diego Moreira. Diego ah, Moreira, okay, Diego ho capito Moreira. Quell'altro. No, Diego Moreira, sì, sono tanti Moreira che stanno andando su. E Diego Moreira lo vinse da MVP, è un giocatore che tutti gli appassionati di calcio giovanile stavano aspettando. Ci ha messo un po', perché una coccia un po' così, ma ti fa capire che il laboratorio Strasburgo, che rappresenta secondo me un po' tutto il movimento francese, perché lavorano proprio così in Francia. Bravi loro. Ok. questo caso, insomma, la crescita è evidente. Siamo arrivati al termine. La Salernitana ha vinto con gol di Eusepi, e qui si critica sempre, ma è l'unico che segna. Ma non diciamo a cazzali, il gol della Madonna lo realizza Kevin Candellori con una palla all'incrocio dei pali dallo spigolo della sinistra. Vittoria finalmente, non vincevano in casa da quando ci sono andati a vedere io col Bra in casa. Bra che è la squadra che affronteremo nei play-out. Parleremo bene, adesso non abbiamo tempo, perché qui succede che il Rimini fallisce a novembre e va. La Ternana fa un pastrocchio che non finisce più, che non è ancora finito, non si capisce ancora cosa deve fare, ma ci saranno comunque i play-out ridotti ad uno. L'Ascoli probabilmente si ritroverà mozzata a metà la sua possibilità di promozione diretta. È un grande casino nelle Serie C, non vi possiamo ancora dire nulla perché ancora non si è capito come va a finire. Noi lo seguiamo, però abbiamo ancora tempo, pronti per i play-out. Esatto, abbiamo anche la pausa. Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi, parte dedicata al fritto misto di sport. Direi di iniziare dalla Serie B, ad esempio. Ti voglio bene quando va così. Lo voglio dire a tutti quanti: non ci avrete mai. Se aspettate da noi news su tennis, pallavolo, potete cambiare canale. Ma parliamo di calcio, che non ne parla nessuno in questo paese. Parliamo un po' di calcio bello, però. Forse dici che è per questo che non facciamo più i mondiali, perché non si parla abbastanza di calcio. Te lo sto dicendo da tanto, voi non mi state a sentire. Allora parliamo di Serie B, allora, dai, dici la tua, Simone, non vedo l'ora di sapere qual è il punto di Simone sulla Serie B. Il punto sulla Serie B è che ieri Petagna, raga, quel Petagna lì, Petagna, non un altro, Petagna, fa un gol della Madonna, che se lo fa Lewandowski si parla di pallone d'oro, ok? Se lo fa Lewandowski si parla di pallone d'oro immediato. Stop di petto al limite, torsione su se stesso, tutto al volo, fio sinistro, mazzata al volo che batte un incolpevole. Martinelli, portiere della Fiorentina, titolare adesso della Sampdoria, fortissimo anche lui. Tutti quella Fiorentina lì, quella Fiorentina ne parliamo lì, bene, ne parliamo. Cioè quella Fiorentina lì è quasi come l'Azerbaigiana under 19. Ne parliamo bene, l'Uzbekistan. Scusa, nazionale. E ti dico che quel Petagna lì, che poi è il gol del 3-0 con cui la Sampdoria mara maldeggia a Genova, con cui Monza stravince la partita a Genova. Monza che vola, accompagnato però da un'altra squadra che vola ed è il Venezia, che ne rifila altri tre anche loro ieri, passeggiando con un'aps doppietta su quello che resta del quasi defunto Bari, perché ormai siamo veramente agli sgoccioli. E Monza e Venezia, Monza e Venezia erano proprio quelle più attrezzate, sì, già dal mercato, dal volume di capitale, due che squadre, è clamoroso per la Serie B. Due squadre costruite apposta per salire. Il Venezia, mi piace sempre ricordare, che è andata a pescare un giocatore dall'ultima in classifica, che era il Pescara, quel Matteo D'Agasto che a me fa letteralmente impazzire, che spero con tutto il cuore di vedere nelle prime convocazioni di Baldini per la nazionale maggiore, già nel giro dell'under, centrocampista di questi favolosi, elettrico, che ti può creare danni nel momento in cui tocca la palla. 2004, avendo un giocatore fantastico. Quindi Venezia e Monza si prendono la scena, ma noi vogliamo più bene a quell'altra. Però appunto i due squadroni, ma non sono, lo sappiamo, sono ce n'è un terzo incomodo, però terzo incomodo è una squadra con cui gli ultimi anni ho sviluppato una certa empatia, e cioè il Frosinone, perché è un progetto serissimo, è un progetto che non supera mai quello che può fare con le proprie tasche, è un progetto che se sta cercando l'ennesima promozione con un allenatore a cui voglio istintivamente bene come Alvini, e quindi questa persona che continua a regalare soddisfazioni e grandi giocatori, perché Geja Mis noi l'anno prossimo lo vediamo in Serie A o con il Frosinone o con qualcun altro, ma sono sicuro che lo vedremo in Serie A. Mi piace sottolineare la stagione di Calò, che è un centrocampista delizioso con un destro fio. Sta pensando il Moro del Bologna, però più funzionale, più costante, quasi in doppia cifra con entrambi, sia gol che assist. Siamo a 8 gol e 12 assist in stagione per questo destro destorso davvero fantastico. E che ti devo dire, una squadra che salta i giovani, per esempio adesso è titolare fisso Bracaglia, che era il capitano di quel giovanissimo Frosinone allenato da Gorgoni, che adesso è in banchina col Pescara, e quindi è una società che vede anche i suoi giovani protagonisti cominciare a crescere, diventare protagonisti nei vari campionati, che io spero tanto di almeno spero che ce la faccia, o diretta o vincendo i playoff, ma spero davvero. Buona anche la stagione di Antonio Raimondo all'interno molto di questo buona, Frosinone, molto no? Buona, funziona un po' tutto, sì. 10 gol già, doppia cifra, niente male, Le ha giocate tutte, quindi insomma c'è una rotazione, perché ci sono altri giocatori interessanti lì davanti. C'è Knevance che può giocare pure sull'esterno. È un bel, sai quei progetti belli, genuini. Ma loro ho detto qua vado a vedere subito, magari è uzbeko, invece no, è Giorgiano. Te l'avrei detto. Magari era un uzbeko, ti eri perso l'uzbeko. Te l'avrei detto. Invece no. Te l'avrei detto. No, ripeto, è un progetto che fa funzionare un po' tutto. Cambiano i vari allenatori. Grosso è stato già un grande protagonista su quella panchina. Ed è bello vedere squadre, questi progetti sani che riescono a lavorare bene. Fa una bellissima vittoria a Modena, al Braglia. Sì. In rimonta perché va in vantaggio il Modena con Massolin, neo acquisto dell'Inter. Fa un bel gol, caro. Un bel sinistro a giro, niente male. Assistito da quello Zanimacchia che quando era giovanissimo nella Cremonese di Pecchia si conquistò una bellissima, anche una grande promozione. Anche quella fu una grande promozione. Quindi ci sono queste tre al vertice del campionato, ma noi chi è che vogliamo continuare ad esaltare? Il Catanzaro di Alberto Aquilani, perché questo continua a dimostrare di essere un allenatore che con la materia, soprattutto se è giovane, ci sa veramente fare tanto. Faremo una puntata speciale su un indice ipotetico che si può costruire prendendo giocatori nel suo triennio di Firenze, sui 4 anni di panchina a Firenze. Ci può costruire un'intera squadra che oggi sono andato a controllare. Sono tutti giocatori che sono diventati tutti professionisti e sono sparsi, che so, tra Serie A, Serie B spagnola, sono tutti quella la B spagnola, vedi. Te lo sto dicendo. Te lo sto dicendo. Anche un centravanti che io vorrei che tipo Orbita Bologna, si chiama Marcos Fernandez, se ne parliamo bene poi un'altra volta, ok? E quindi sono queste situazioni. Che ha 9 anni questo. No. No. È un ventenne, è un 21-22 anni che se la sa sbatte dentro. E quindi perché di Aquilani si parla poi questo effetto, che se Grosso dovesse andare a Bologna è facile che Aquilani vada a Sassuolo. Potrebbe quindi essere passato. È uno di quei nomi che si comincia a vedere, perché ti ripeto, è un allenatore che è stato capace di tirare su una generazione di giocatori con cui adesso puoi fare un 11 già adesso titolare. Catanzaro che comunque andrà ai playoff, sicuro di essere ai playoff, diciamo delle tre in vetta la classifica, due vanno su subito e una andrà ai playoff, questa è la situazione, anche perché il Palermo mi sembra un filo sotto. Poi Giampaolo continua, passa 23 gol, sta già ieri ancora doppietta per Giampaolo. Palermo ovviamente sarà comunque una squadra molto ostica per i playoff, è sicura. Dei playoff sotto Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Cesena. Anche Juve Stabia è un progetto bellissimo, interessante. Un progetto con senza soldi, basato sui prestiti in modo virtuoso, perché comunque tanti anni che con budget molto limitato sono lì. In chiave nazionale facciamo qualche nome, sempre in chiave progetto Baldini, Under 21, futuro, cioè Cacciamani mi sembra nello Juve Stabia che... dovrebbe giocare a Juve Stabia, posso fare un errore, ma dovrebbe esserci, che è un bellissimo esterno nel Catanzaro, in chiave sicura, questa invece chiave futura azzurra. I nomi sono sempre quelli di Cissé, che adesso stiamo fortunando ma è stato ceduto al Milan, di Liberali e anche di Favasuli, che indovina un po' da dove arriva anche lui, Favasuli, che è Fiorentina è primavera, che, di quelli come grandi. Cognome non mi sembra uzbeko, no. Quindi o è uzbeko o è anche lui di quel triennio lì, ed è probabilmente il miglior terzino destro del campionato di Serie B quest'anno. Sì, ok, quindi cioè, lo sapete anche voi, non vi faccio nemmeno a caso, e ripeto, so tutti i giocaiode da dove credete che arrivi. La Fiorentina. Da quella Fiorentina lì. Cioè, ripeto, se un allenatore è capace di crescere un'intera squadra che piano piano sta diventando professionista e sta guadagnando posizioni nel calcio, Bianco è nel PAOK secondo in Grecia. Ok, era andato anche bene, abbastanza bene l'ultima stagione a Monza, aveva fallito mi sa l'anno prima a Firenze, però vi sto parlando di un allenatore che sa lavorare con la materia. Quindi Aquilani è quel nome che vi dovete segnare per l'anno prossimo, assolutamente. Io darei un occhio anche, perché rischia di arrivare a fare i playoff, sarebbe davvero un risultato clamoroso, la neopromossa Carrarese. Oh, ho visto anche ieri delle immagini. Nella Carrarese, per esempio, c'è in prestito da Napoli, ex giovanile Juve, Asa, che era il capitano di Nazionale Italiana Under 19, qualcosa del genere. Anche lui, centrocampista. Anche lui. Da 5-6 gol e 3-4 assist quest'anno nella Carrarese, dove è compagno di squadra di Di Stefano, che ieri segna, se non mi sbaglio, ieri timbra l'1-0 per la Carrarese, e indovinate da dove arriva anche il suo Di Stefano, sempre dalla stessa Fiorentina di Aquilani, che ripeto, ha prodotto un'intera squadra e più di giocatori che arriveranno, sono quasi sicuro che li vedremo quasi tutti in Serie A. Quindi se un allenatore è capace di fare una cosa del genere, bisogna attenzionarlo. perché ripeto, no, la crescita di tutti, lo guarderemo, bene, lo guarderemo. Tutti molto bene. Ci sono un paio di messaggi da leggere dal 333 180 94 94. Uno dice: ma c'è un giocatore uzbeko in quella Fiorentina? Quindi sarebbe, allora, il massimo, cioè, in quella Fiorentina, fammi c'era dire, un uzbeko? Mi sembra di no, c'erano un paio di, c'era Krastev, che era il libro, il difensore, che credo però fosse di bulgaro, mi sa, credo. No, perché era, poteva essere l'Unione, sarebbe era stato interessante, roba. Perché siamo fermi a Eldor Shomurodov, il Messi, no, uzbeko. C'avevano maglia della Roma. Che cazzo è tirato fuori adesso? No, c'era Krastev che faceva l'utilizzato addirittura come libero. Parlo di 3 anni fa, libero, il libro. E c'era Toji come centravanti, che però credo sia albanese, non uzbeko, che dovrebbe essere con le Dolomiti bellunesi anche lui. Dovrebbe passare 4-5 gol stagionali. Tanto talento, tanto sviluppato. Beh, c'è Kuzenov a giocare al Manchester City. Uzbeko. Esatto. Quello l'ha voluto proprio Guardiola a tutti i costi, eh? Perché sono giocatori che uniscono. Perché ascolta Caffè Paglia. Le voglio anche uno uzbeko. Vi faccio un paragone. Ce l'ho uno della Fiorentina? No. Uno della Fiorentina al City non ce l'ha. Allora no, deve avere almeno l'uzbeko. Vi faccio un parallelo. Io non seguo molto le arti marziali, però di rimbalzo ogni tanto sento qualche nome, leggo qualcosa. Molti atleti che arrivano dall'est Europa fanno le arti marziali, cioè fanno quel tipo di sport lì, e so quei tipi di sport in cui devi essere durissimo, a parte come il granito fisicamente, ma con la capoccia devi essere veramente duro tanto. I giocatori uzbeki, comunque di quella zona eurasiatica, diciamo così, sono quasi tutti così, cioè tu li vedi in campo, ti danno sempre l'idea di essere incredibilmente concentrati sul pezzo. Sembrano davvero gente pronta ad andare, non voglio mandarlo sulla poetica esagerata, ma sembra davvero tutti dei soldati pronti a fare il loro. Li veri sembrano inscalfibili, non sorridono quasi mai, sempre fisicamente delle bestie. Tra l'uzbeka, che è composta, capito, da quasi tutti da giocatori dello Pax Takor, che è la squadra che in Uzbekistan ha vinto 16 tornei. 16 scudetti, sì. Quindi va per l'ultimo, la doppia stella. L'ultimo di cui mi sono innamorato come giocatore è Tuksanov, esterno dell'Under 19, dell'Under 17 due anni fa, ormai credo che sia nell'Under 19, sempre dell'Uzbekistan, sempre un esterno fisicamente, ricorda tantissimo il CR7 giovane, quindi forte, potente e anche molto veloce, sfacciato, senza paura di nulla, quel tipo di giocatore là, ripeto, se avete la curiosità, andate, digitate al volo calcio giovanile Uzbekistan al Bodoro, e vi esce una lista così negli ultimi 4-5 anni. Tornei under 20, 21, 19, sono tante, cominciano a essere tante ripetute le vittorie in vari tornei. Beh, quindi, ma insomma, non è che. Movimento che sta crescendo gigante. Lo speciale sull'Uzbekistan mi sembra sia la prossima settimana, chiedo al regista. No, adesso vabbè, poi faremo anche una specie di versione di Caffè Paglia durante i mondiali. E lì si parlerà molto di calcio uzbeko. Poi ve lo prometto. Ci saranno inviati anche sul posto, vero Mingo? Vado in Messico, come diceva Vasco Rossi. Quanto ci costa questa operazione? Vi ringrazio, ragazzi, per peccato non ci sia l'Italia. Dobbiamo sponsorizzare. Voglio che mi vai a vedere il Canada, però sono curioso di vedere il Canada. Seguirò assolutamente il Canada. Un altro messaggio al 333 180 94 94. Ritorna un po' nel tema, uno dei temi preferiti da Simone. Parlando di calcio e musica, spero che apprezzerete la collaborazione tra l'FC Internazionale e la Sony per i 50 anni di Wish You Were Here, con una bellissima maglia celebrativa simile a quella che utilizzavano gli stessi Pink Floyd nelle partite di calcio disputate durante le pause tra una data e l'altra del tour. Infatti venerdì sera la foto, esatto, infatti venerdì sera ero allo stadio, è partito Wish You Were Here, da un po' di tempo che la fanno, e fuori c'era anche una specie di tabellone luminoso con il simbolo, okay, è un'operazione commerciale, tutto insomma. Molto bello, però io ho bisogno di vedere com'è la maglia, la maglia del nuovo anno. Questo è un discorso importante, molto importante. Sta tornando la maglia dell'Inter tradizionale. Pare che l'anno prossimo l'Inter giochi con la maglia dell'Inter. È già uscito un mezzo prototipo, non so poi se sarà la versione definitiva. Fammi vedere, ok. Inter retro, la potete vedere in radiovisione. In questo momento Simone sta analizzando, il tecnico Simone sta analizzando la maglietta. Ok, è carina. È carina. E l'effetto vintage c'è. Parlavamo del campionato spagnolo che ha fatto la giornata vintage. Comunque bello il messaggio sui Pink Floyd. Bravo l'ascoltatore. Molto bravo. Tra l'altro con foto annessa dei Pink Floyd con la maglietta, con questa maglietta. Giusto. E giocavano loro a calcio, gli piaceva giocare tra le pause della tournée. E a questo punto direi di passare a un altro sport, la primavera, campionato primavera 1. Perché MLS. Il Bologna MLS era il calcio internazionale, te lo sei dimenticato la prossima volta. No, però c'è il Bologna che è nei playoff, ipotetici playoff di primavera 1, e tu non mi dici niente. Ho dovuto un cambio di lavoro, cambio di turni, mi sono hai dovuto abbandonare perché il sabato mattina spesso lavoro e la primavera molto spesso è in diretta di sabato mattina, e quindi andato a perdermi, insomma, dovevi scegliere tra il calcio sbeco e la primavera, hai scelto il calcio sbeco, giustamente. Tirava di un orario, in quel momento tirava di più flessibile negli orari. Mi è più comodo seguire il calcio uzbeko. Però il Bologna in realtà è così, giusto per quinta, pari all'Inter. Come si chiama il trequartista del Bologna? Menegazzo, mi sa. Menegazzo. Che mi sa che nel giro under 21 o under 19, lui ancora me lo ricordo, cioè gli ultimi rimasugli che ho è appunto Menegazzo. In questo momento in testa c'è la Fiorentina, ovviamente, semplicemente perché l'Uzbekistan non partecipa. Sono tutte bene tranne la prima squadra. Avrebbe... Che giocherà stasera, ricordiamo, non l'avevo detto prima oggi, la Serie A c'è il Lecce Fiorentina. Lecce, importante, mare, soprattutto per il Lecce. Fondamentale per il Lecce, a questo sì. punto. Poi c'è il Parma, Cesena, un po' a sorpresa al terzo posto, ma in realtà sempre molto con un settore giovani storici. Lavora. Roma. Ricordo Alessandro Bianchi, una cara. Grandissimo esterno, un grandissimo giocatore Alessandro Bianchi. Mo' ha detto un bel nome. Ha tirato fuori un bel nome. Roma e Bologna, poi Inter e Atalanta, quindi insomma ci sono le big un po' del movimento, e ci saranno i playoff, ci sono i playoff nella primavera, e quindi può anche essere che insomma magari andiamo insieme a vedere una partita. Ma magari se c'è qualche turno molto volentieri, visto che la stagione della prima squadra è finita. Anche il mister, il 27 aprile andiamo a Crespellano a vedere Bologna-Genoa di primavera 1. Intanto andiamo verso l'Inter, che è allenata da Benny Carbone. L'Inter primavera, l'Inter primavera allenata bene Carbone. L'Inter comunque anche lì come Academy negli ultimi almeno 10 anni ha fatto un enorme lavoro, producono giocatori in serie anche loro, vincono molto spesso, la qualità è sempre abbastanza alta. Gli ultimi che mi vengono in mente sono Zanotti, mi sembra che è l'esterno destro, l'esterno è il capitano, anche lui giro under 21, cioè anche lì sono bravi. Ricordiamoci, te l'ho già detto la settimana scorsa e te lo ripeto, voi in questo momento potete controllare il fratellino di Kvaratskhelia, e io fossi in voi non conterei fino a 2 prima di firmare, lo dovete bloccare immediatamente. Ma l'hai detto ai tuoi amici? Immediatamente. Quando sei andato sullo stadio, sì. Blocchiamo il fratellino di Carlsberg. No, non l'ho detto. Non l'hai detto. La prossima, stasera, no, domani. Domani quando li domani, vedo, vai, lo dico. Devi dirlo alla curva, vorrei un coro della curva. Non è un gran periodo per la curva, amico. Magari lo vado a dire a qualcun altro. Sa mai. Vabbè, qualche amico, anche il paninaro che ti fa l'Indre va bene. Il va Billy bene. Di San Siro. Metti in giro la voce, ecco, se non altro. Inizia a mettere in giro la voce, perché questa potrebbe essere... Uno scoop. Dopo sei tu il primo a dirlo in curva, cioè capisci? Ma secondo me Gianluca Rossi già lo sa, dai, figurati se non si è informato. Manca pochissimo, quindi andiamo avanti con gli argomenti. Velocemente, la Virtus ha vinto contro Tortona, in questo momento è là davanti con Brescia. È arrivato il nuovo giocatore, il nuovo playmaker, problemi soprattutto nei playmaker per la Virtus. Dos Santos ha fatto il suo esordio e ha finito anche vincendo in Eurolega dopo una lunga serie di sconfitte. Ha finito la stagione ovviamente fuori dalla possibilità di giocare i playoff, ma molto fuori anche. La Fortitudo è in una situazione, adesso ti racconto, caro Simone, questa è la situazione della Fortitudo. Manca una giornata al termine del campionato. Mi è già da ridere, non so perché. Allora, ci sono due squadre nel primo posto, okay. Hanno 50 punti, okay. La Fortitudo ne ha 48, okay. Se arrivano tutti e tre a pari merito, okay, passa la Fortitudo. Perché? Per scontri diretti, okay, per differenza canestri sugli scontri diretti. Quindi se le prime due perdono entrambe e la Fortitudo vince, andiamo su diretti. Clamoroso. Mamma mia ragazzi, è vero che le prime due dovrebbero perdere le prime due, cioè perdere entrambe. Ma se la casistica prima la e seconda non c'è mai stato. È una cosa curiosa, capito? Fai un po'. Scusa amico, se perde una su due? Se perde una su due, l'altra va su. Chi va su, chi vince va su. Chi vince delle due va su, perché quanto tempo ci abbiamo? Ancora qualche minuto, tre minuti. Tre minuti. Vi rubo solo qualche secondo, torno un attimo sul calcio perché è veramente importante. È importante, ragazzi. Non mi fate perdere, è importante perché per colpa di un regolamento di merda noi fino adesso non abbiamo potuto avere nei campionati professionistici italiani un giocatore secondo me spaziale, che però siccome extracomunitario per poter andare nei professionisti doveva vincere i campionati di Serie D con la squadra con cui stava. L'ha vinto domenica con il Barletta che torna tra i professionisti dopo 11 anni e soprattutto gruppo erotico, ci torna con Matheus da Silva Castro, centravanti 28enne, che è un giocatore che io negli ultimi 10 anni è uno di quelli tra i top 3 che mi ha fatto divertire di più, perché Fio è completamente folle, è folle, il suo modo di giocare non lo puoi controllare perché è folle, è completamente fuori di te, ti può tirare da solo senza rincorsa da 50 metri, come ti può dribblare 3 giocatori in un fazzoletto, alto 1,93 m, resistente, è sempre sorridente, è un mix tra, il suo modo di giocare è un mix tra, come atteggiamento ma non come qualità tecniche, è un mix tra Ronaldinho e che ne so, Vieri quando impazziva tirava da 70, cioè è un Vieri dell'Atletico Madrid completamente matto, Ronaldinho delle scarpe antinfortunistiche. Esatto, quel Ronaldinho lì, sai, con quei giocatori, cioè, completamente dici, fuori di testa. Piuttosto che parlare dell'inizio dei playoff NBA, meglio parlare di questo 28enne che vince la Serie D, chi segue le e diventa italiano vincendo la Serie D, quindi può essere convocato. Questo non lo so, può essere pure, lo convoca, se fosse disponibile, visto i centravanti che abbiamo, sì. A parte che spero lo combi la Samba, perché questo è un giocatore veramente, Fio, seguilo, Mirko, anche tu, social. Dado, seguilo, perché è veramente un giocatore fantastico. No, ma è un centravanti completamente folle. Seguo il Barletta. Folle, completamente folle. Vi volete divertire invece di continuare con la noia della Serie A? Guardate Matheus della Silva. Allora Mingo, hai proprio un minuto per una breve carrellata sui playoff NBA. Playoff NBA iniziano tutti da l'unica vittoria in trasferta è quella di Orlando contro la prima a Est, quindi Detroit, vince Orlando in casa di Detroit, quindi cambia, cioè ribalta il fattore campo diciamo, e quindi parte per davvero la serie e poi può essere insomma interessante. Le altre diciamo tutte abbastanza tranquille, con un LeBron James che da quando si sono infortunati le altre due punte di diamante della squadra ha detto mi toccherà lanciarmi le scarpe e fare qualcosa in più. Riesce a farlo. 41 anni. No, leggo critiche su LeBron James. Riesce a salire di livello. Pazzi. Però non so se uno ha capito. Adesso magari uno. Cioè, lui ha 41 anni. A un certo punto i due più forti della squadra si infortunano, lui decide alla fine, cioè aveva già giocato 80 partite all'inizio, cioè, proprio quando bisogna cominciare a fare sul serio. Mingo, hai 10 secondi per parlarci brevemente di LeBron James, poi devi salutare. LeBron James rimane il più grande atleta secondo me della storia a tutti gli sport probabilmente, ma ha 41 anni. Alla prossima settimana, aspettiamo i Sonics.